5i. Ascolta e replica. Loro non sono italiani. Neanche noi siamo italiani. Loro non sono a lezione. Neanche noi siamo a lezione. Loro non sono in ritardo. Neanche noi siamo in ritardo. Loro non hanno esperienza. Neanche noi abbiamo esperienza. Noi non siamo contenti. Neanche loro sono contenti. Noi non siamo italiani. Neanche loro sono italiani. Noi non siamo famosi. Neanche loro sono famosi. Noi non abbiamo paura. Neanche loro hanno paura.